in primo piano. Buongiorno, buona domenica, ultima domenica di luglio da Giulia Crivelli. E oggi abbiamo, i giornali sono, mi sembra almeno, più ricchi del solito, quindi io cercherò di segnalarvi, di darvi degli spunti, ma sia nelle pagine principali che nei supplementi culturali c'è veramente tanto da leggere. Compratene più di uno, questo è il mio consiglio. Cominciamo però dal Sole 24 Ore, che ha l'apertura sui famosi, su tutta la questione bancaria, quindi da una parte gli stress test che sono già stati, di cui si è già ampiamente scritto e parlato ieri, ma poi anche le ipotesi, perché poi domani quando riapriranno le borse vedremo come reagiranno. E quindi il titolo del Sole 24 Ore: MPS, cioè Monte dei Paschi di Siena, al test degli hedge fund, e l'amministratore delegato che Viola, che ha dichiarato ora la banca è risanata. Ma al di là della cronaca e al di là appunto di questa intervista che trovate a pagina 3 fatta da Alessandro Graziani all'amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, Viola, c'è un'analisi di Donato Masciandaro, la sfida redditività, che trovate, inizia in copertina e trovate poi a pagina 3. Sempre sulla questione banche, vista appunto in un quadro più generale, perché l'ultimo capitolo diciamo sono gli stress test e tutti si aspettavano la bocciatura per MPS, ma è quello delle banche è un problema, abbiamo scoperto, abbiamo avuto la conferma ieri, sicuramente non solo italiano. E quindi l'editoriale di Roberto Napoletano: banche, Stato e mercato, soluzione in extremis e fiducia da costruire, perché anche quando si guardano i sondaggi o le indagini sui consumatori si scopre che in questo momento e probabilmente da parecchi mesi le banche sono appunto ai minimi, raccolgono i minimi di fiducia soprattutto tra le persone, perché troppi sono stati gli scandali e tra l'altro ricordiamo tutti il famoso credit crunch, non è una percezione, è quella stretta del credito che c'è stata durante la crisi e che non è ancora del tutto finita e che condiziona sia le famiglie che le imprese. Sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore, il consueto intervento di Bruno Forte, arcivescovo di Chieti Vasco, che oggi non poteva che essere dedicato a quello che Papa Francesco ha detto alla 31esima giornata, o meglio, le 31esime giornate mondiali della gioventù, che come sapete si concludono oggi a Cracovia, in Polonia. Il commento, ci sono in realtà due pezzi che poi trovate a pagina 21, uno è un po' la cronaca fatta dal vaticanista del Sole 24 Ore Carlo Marroni e poi appunto questo racconto più personale, se vogliamo, di Bruno Forte, Francesco, i giovani e la misericordia. La consueta lettera al risparmiatore è dedicata a un'azienda del biomedicale che è la Diasorin di Vittorio Carlini, come sempre la trovate poi all'interno delle pagine di finanza. Il Corriere della Sera titola proprio sulle parole del Papa, che come avete sentito anche sicuramente nei GR e nei telegiornali già ieri sera, ha fatto questo appello a che Dio tocchi i cuori dei terroristi. Il Dio fermi il terrore, e poi un accenno a questa iniziativa, vedremo con tantissimo spazio anche sugli altri giornali, questo invito ai musulmani di andare a pregare nelle chiese cattoliche oggi. La fotonotizia però è dedicata alla vicenda che sta un po' sparigliando le carte nel post-convention repubblicana e democratica e in questi 100 giorni che mancano alle elezioni presidenziali, e quindi la sfida tra Donald Trump per i repubblicani e Hillary Clinton per i democratici. Il Massimo Gaggi ci cerca un po' di fare il punto su questo, tutte queste voci sul fatto che ci sarebbero degli hacker russi dietro a una serie di hackeraggi appunto di mail, per esempio all'interno del Partito Democratico. La paura cresce che la Russia voglia addirittura influenzare le elezioni americane. Putin in questo non ha ancora detto assolutamente niente, però il titolo dell'articolo di Massimo Gaggi è «L'ombra di Putin sul voto USA». I pirati informatici spiano lo staff di Hillary Clinton, dietro ci sarebbe Mosca, uno scenario per condizionare il voto alla Casa Bianca. E l'ex direttore della CIA che dice non sarebbe la prima volta che il Cremlino interferisce. E poi vi segnalo anche, poi lo trovate, addirittura sono quattro pagine all'interno, da pagina 16 a pagina 19, un articolo di Zadie Smith, e mi ha talmente preso che mi sono dimenticata del traffico, datemi 30 secondi e diamo la linea al traffico. L'articolo della scrittrice Zadie Smith, il recinto attorno alla mia scuola e la Brexit, figlia delle barriere. Quindi si torna sul tema della Brexit, ma ora spazio al traffico. In primo piano. Rieccoci. La Repubblica apre su quell'intervista che avete sentito citata anche nel GR, l'intervista al Premier Renzi, che Repubblica sceglie di intitolare MPS non pagano i cittadini. Vi leggo però la trovate poi a pagina 2 e 3, fatta da Stefano Cappellini. Vi leggo, a proposito di banche, un'altra domanda. Dai casi Popolare Vicenza Etruria, di cui era dirigente il padre del ministro Boschi, fino a MPS, la sfiducia di molti cittadini verso il sistema bancario non è solo una questione di indici e test. Ci sono state responsabilità della politica e degli organi di vigilanza. E torna, appunto, ve lo segnalo in particolare perché torna questo tema della fiducia. E Renzi risponde: in Italia c'erano e ci sono ancora troppe banche e ancora poco credito. Noi come governo abbiamo messo le mani in una situazione difficilissima con un obiettivo chiaro: via la politica dalle banche, via i meccanismi allucinanti delle popolari dove qualcuno faceva campagna elettorale per il rinnovo dei CDA attraverso la concessione di credito. E per farlo la riforma delle popolari del gennaio 2015 segna una svolta storica. Un'altra domanda invece che riguarda, anche qui, visto che tutto poi si lega e si collega, le parole del Papa. Ricorderete qualche giorno fa Papa Francesco ha detto, secondo me con un coraggio, con moltissimo coraggio, questa non è una guerra di religione. E allora Stefano Cappellini chiede a Renzi: le parole del Papa, non è una guerra di religione, hanno suscitato un vivace dibattito. Qual è la sua opinione? C'è un problema a trovare sponde e argini dall'Islam moderato? E Renzi risponde: io non uso la parola guerra, rispetto chi lo fa. Dal Papa, che in queste ore a Cracovia con la giornata mondiale della gioventù mi ricorda i tempi di Parigi o Tor Vergata quando anch'io partecipavo a questi raduni, fino a Hollande o Merkel. Loro hanno usato la parola guerra, io preferisco parlare di terrorismo. La sostanza tuttavia non cambia, e non cambia soprattutto la necessità che l'Islam moderato faccia sentire la sua voce forte e chiara e senza alcun tentennamento. E allora andiamo subito sull'Avvenire, che apre sulle parole di ieri del Papa: giovani, lasciate la vostra impronta, e poi i terroristi tornino alla pace. Sempre sotto questa fotonotizia che ritrae il Papa insieme ad alcuni giovani proprio a Cracovia, viene richiamata l'iniziativa di cui vi dicevo, i musulmani in chiesa non sarà l'ultima volta. Oggi le delegazioni alle messe in Francia e anche in Italia, e il Cardinal Bagnasco ha subito risposto: siamo lieti e grati di questa iniziativa. All'interno dell'Avvenire trovate anche uno speciale sulle giornate mondiali della gioventù, con approfondimenti, racconti così, fotografie di questi ragazzi che appunto hanno più di 1,5 milioni che sono in Polonia per ascoltare le parole del Papa, e non solo, perché poi ci sono molti incontri, convegni, dibattiti. Il Messaggero ha un titolo diverso, perché come Repubblica con la sua intervista a Renzi, qui il titolo si riferisce all'intervista del ministro della difesa Roberta Pinotti. Il virgolettato è: un piano per fermare la jihad. Secondo appunto il ministro della difesa ci sarebbero già delle misure studiate con gli alleati della NATO per tenere lontano i cosiddetti foreign fighters, e un pool di esperti sposta la battaglia sul web, perché come sappiamo molto delle connessioni tra terroristi o aspiranti terroristi avvengono sul web. E poi naturalmente in prima pagina, essendo il Messaggero il quotidiano di Roma per definizione, l'inchiesta rifiuti scuote la giunta per le consulenze dell'assessore. Sapete che è venuto fuori che l'assessore Muraro, che è stata scelta da Virginia Raggi, in realtà è stata consulente dell'AMA, l'azienda municipalizzata che si occupa dello smaltimento dei rifiuti a Roma, è stata consulente per molti anni, in tutti questi anni avrebbe preso dall'AMA 1 milione di euro. Soltanto dal 2014 avrebbe denunciato alcune irregolarità, e quindi polemiche a non finire, e un appello del PD, addirittura dei parlamentari PD, nemmeno dell'opposizione PD romana, cosa bizzarra, a dimettersi per l'assessore Muraro. Vedremo, perché il Movimento 5 Stelle ha già risposto in modo altrettanto polemico, dicendo che le critiche del del PD sono una medaglia. Questo è il livello del dibattito, anziché appunto scendere nel particolare, capire veramente che tipo di consulenze fossero, cosa ha fatto l'assessore Muraro nelle precedenti giunte come collaborato, come consulente dell'AMA, ma questo viene dopo, semmai, forse. Il Giorno, vi segnalo Il Giorno perché a proposito di lotta al terrorismo, il titolo principale è anche in questo caso riferito a un'intervista, in questo caso è al ministro dell'Interno Angelino Alfano: moschee fonde ai raggi X, massima attenzione ai finanziamenti che le moschee in Italia ricevono dall'estero. Siamo, dice Alfano, sì a imam formati in Italia. E per quanto riguarda quelli che si sono radicalizzati in carcere, dice, li conosciamo, sappiamo chi sono. Quindi cerca di rassicurare sull'impegno soprattutto dei nostri servizi di intelligence per prevenire gli attacchi, soprattutto. Un'altra intervista apre La Stampa, questa volta è al garante dell'Unione Europea Giovanni Buttarelli, garante della privacy, che dice: in Europa per combattere i jihadisti non serve limitare le nostre libertà. Questo è un tema molto interessante che forse ricorderete è stato al centro del dibattito anche dopo gli attacchi dell'11 settembre, quando in America vennero varate delle leggi che permettevano appunto di sostanzialmente violare la privacy dei cittadini se si riteneva che questo fosse necessario per garantire la sicurezza nazionale. Sulla giornata mondiale della gioventù vi segnalo il bell'articolo di Enzo Bianchi, il priore di Bose: l'umanità ritrovata nel cuore dei giovani. E poi un po' pensiero laterale, volendo dire così, l'articolo di Maurizio Molinari, direttore della Stampa, che inizia in copertina e poi trovate a pagina 21, così l'America progetta il nostro futuro e ci racconta quello che sta avvenendo nei laboratori della NASA sul lungomare di Miami-Dade e nelle aule del Congresso di Washington, dove l'Agenzia Spaziale Americana ha iniziato a testare l'aereo elettrico, frutto del programma New Aviation Horizons, capace, grazie a 14 piccoli motori, di schiudere al rapporto commerciale l'orizzonte delle energie alternative. Quindi dopo le macchine elettriche, che sappiamo hanno avuto un lungo cammino, però adesso cominciano a diffondersi perché cominciano a avere una certa autonomia, a essere convenienti, prossimo mezzo di trasporto che appunto potrebbe non usare più combustibili fossili sono gli aerei. Il secolo XIX, ve lo segnalo, anche in questo caso la fotonotizia come per la Repubblica sulla la questione degli hacker russi che avrebbero spiato le mail di Hillary Clinton e di altri informatici, ma ve lo segnalo anche perché c'è un approfondimento sulla vicenda di Gino Paoli, che era stato indagato, lo ricorderete, per evasione fiscale e per aver portato molti soldi in Svizzera. Il PM ha dovuto archiviare, niente processo, non perché il fatto non sussista, ma perché i reati sono prescritti. Il Fatto Quotidiano parla del, come anche qui un titolo un po' diverso da quello degli altri giornali, ha fatto i conti di quante ferie, visto che appunto sappiamo che questo weekend, ma soprattutto il prossimo, sarà veramente il weekend dell'esodo, perché l'Italia, lo sappiamo, è un paese dove la maggior parte delle persone va in vacanza in agosto. Ecco, le ferie degli onorevoli, 40 giorni. Un nuovo record, ci racconta il Fatto Quotidiano, i parlamentari, ironicamente non proprio stremati dal lavoro, sono fermi fino al 13 di settembre, camere paralizzate, nessun voto importante fino al referendum, ma il fatto non si ferma qui, anche se già questo secondo me basterebbe a fare un po' arrabbiare, ma fa le classifiche dei parlamentari che in questo anno, diciamo, scolastico potremmo dire, no? Perché in generale quando finiscono le scuole poi si ricomincia a settembre con un altro anno, è forse più un capodanno che quello vero. Insomma, in questi ultimi 10-11 mesi fa la classifica al Fatto Quotidiano dei parlamentari più assenti, dei più presenti, dei meno produttivi e dei più produttivi. E vabbè, non ve li sto a elencare tutti, comunque insomma fa abbastanza effetto sapere che ci sono parlamentari che in Parlamento quasi non mettono piede. Un'altra intervista apre invece Libero, in questo caso anche qui poi su due pagine, trovate pagina 2 e 3, a Stefano Parisi, Il virgolettato è: ho un piano diabolico. Dobbiamo recuperare 10 milioni di voti, taglierò le tasse e farò funzionare lo Stato. Questa Europa non mi piace e con Salvini andremo d'accordo. Lavoro per Forza Italia, Berlusconi è stato tradito. Basta con la retorica sui migrati e terrorismo e... Parla anche di questo evento che è già stato annunciato e al quale peraltro Salvini ha già annunciato di non poter andare. L'evento del 16 settembre è solo mio. Presenterò un progetto con idee e uomini nuovi. In questo caso il commento, l'intervista è di Pietro Senaldi, il commento è di Vittorio Feltri, direttore di Libero. Se fallisce lui, il centrodestra è proprio finito. E poi vi segnalo da Libero un articolo di Antonio Socci. Sapete che io sono sempre molto attenta a... vedere da quale angolo Socci attacca Papa Francesco di volta in volta. E oggi, che forse valeva la pena di fare un commento sulle giornate mondiali della gioventù, no, Antonio Socci si esercita su un tema abbastanza insolito, su un quadro di Renato Guttuso. Il titolo è Il quadro anticomunista di Guttuso e l'articolo lo trovate poi a pagina 24. Il giornale invece titola sulla questione della mobilitazione del cosiddetto Islam moderato e quindi questa iniziativa che per portare oggi i musulmani a pregare nelle chiese cattoliche nel giorno che i cattolici dedicano la preghiera. Oggi tutti in chiesa a pregare non basta, quattro cose che gli islamici ancora non fanno. È l'articolo che trovate sulla copertina e poi l'approfondimento da pagina 2 a pagina 6 e addirittura una presa di posizione di Magdi Cristiano Allam, che è un ex musulmano convertito al cristianesimo, un giornalista, è stato anche vice direttore ad personam del Corriere della Sera, poi è diventato editorialista del giornale e il suo articolo si intitola «No, così si legittima la fede dei kamikaze». Lo trovate in copertina e poi a pagina 2, sicuramente ci sono spunti di riflessione, però forse non so, la prima impressione quando è stata lanciata questa iniziativa era in realtà positiva, che finalmente ci fosse quel gesto appunto che da tanto tempo si chiedeva all'Islam, al cosiddetto Islam moderato. Tanto che l'Unità, per esempio, titola Il miracolo di Padre Jacques. Padre Jacques naturalmente è il pastore sgozzato in una chiesa francese 5 giorni fa e quello che appunto viene definito il miracolo di Padre Jacques è che oggi per la prima volta nelle chiese d'Italia e Francia i musulmani saranno insieme ai cattolici. Noi ci fermiamo però un attimo per anche avere gli aggiornamenti sul meteo. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Ci mancavano solo le copertine del Manifesto, che titola Non c'è partita, quindi un titolo ancora diverso rispetto agli altri giornali, e la questione è quella del referendum costituzionale. Il comitato del no ha infatti scritto al presidente Mattarella, Sergio Mattarella, perché intervenga contro quello che il comitato per il no definisce uno squilibrio informativo in televisione, perché le ragioni del sì occuperebbero ogni spazio. Il Manifesto è l'unico giornale che mette in prima pagina la Turchia, dove naturalmente continua a succedere di tutto, ma noi abbiamo un po' spento i riflettori. E quindi il Manifesto: Erdogan a Europa e Stati Uniti, fatevi gli affari vostri. 17 giornalisti arrestati, altri 17 dovremmo dire, e intanto in Kurdistan sono stati uccisi 35 esponenti del PKK, che è il principale partito appunto che raccoglie le istanze del popolo curdo e che è nemico giurato di Erdogan. La Gazzetta dello Sport, in mancanza di partite, di campionati, parla della trasferta dell'Inter e soprattutto titola Follie per Icardi. Il Napoli sale a 70 milioni per far vacillare l'Inter, ma il muro per ora resiste. Appunto a proposito di Inter e di Icardi, Maurito in gol col Bayern, che però ne fa 4, come avete sentito nel GR, questo in America. Ma andiamo sul Sole 24 Ore. Questo secondo me è un articolo interessantissimo perché parla di come questi non performing loans, gli NPL famosi, le sofferenze bancarie, crediti inesigibili se vogliamo tradurlo in italiano, quando avete probabilmente sentito in che cosa consiste, in che cosa consisterebbe questo piano di salvataggio del Monte dei Paschi di Siena, sono due i temi principali: da una parte appunto le sofferenze, dall'altra l'aumento di capitale. Ma uno si chiede, almeno io che poi non sono esperta di banche, che cosa vuol dire vendere delle sofferenze. Ecco, Isabella Bufacchi ci spiega appunto questa operazione, che poi è anche un'operazione di cartolarizzazione, e il titolo dell'articolo che trovate a pagina 4 è: così la garanzia trasforma l'NPL in un quasi BTP, in vista buoni rendimenti da questa cartolarizzazione record delle sofferenze MPS. Vi dicevo, domani aspettiamo tutte le reazioni dei mercati, e a Maximilian Cellino a pagina 7 la borsa punta sul rimbalzo del settore, Piazza Affari testa la possibile svolta. Da inizio anno, pensate, il comparto bancario in Italia ha ceduto oltre il 47%. Sempre dal Sole 24 Ore, da Nova, che trovate sempre la domenica sul Sole 24 Ore, un bellissimo approfondimento su quella che viene chiamata blue economy, cioè l'economia legata al mare. Dall'allevamento di pesce all'energia e ai trasporti, l'economia degli oceani arriverà a valere nel 2030 3.000 miliardi di dollari. Dal dorso invece di norme tributi, ahimè tocca parlare anche di questo, non fa mai piacere, le 200 scadenze dell'estate del fisco. Il 22 agosto i contribuenti di Unico prorogati verseranno con lo 0,40% in più, termini definitivi dopo il 15 settembre per il 770, e si chiude il 30 settembre con la spedizione di Unico. Trovate un riassunto di tutto questo e poi anche una tabella che ancora più delle parole ci fa capire che cosa dovremo o non dovremo pagare. Tra l'altro vi segnalo, ma ne parleremo anche domani, che da domani parte, come era stato nello scorso agosto, una guida giornaliera per i professionisti che riguarda tutti i temi. Domani appunto si parlerà, ve lo anticipo, di case condominio, questa prima uscita è dedicata alle nuove regole fiscali sull'acquisto e l'affitto delle abitazioni. E poi l'approfondimento sulle Olimpiadi, perché sono qui ormai, iniziano il 5 di agosto, e Maria Luisa Colledani, in questo focus che trovate a pagina 19 del Sole 24 Ore, Rio 2016, al via le Olimpiadi dello sport pulito. Pensate, ci saranno 11.400 atleti da oltre 200 paesi, e pur nelle difficoltà, perché abbiamo sentito anche di tutti i ritardi persino nel villaggio olimpico che deve ospitare gli atleti, si potrebbe riattivare la domanda interna. E Francesco Prisco ci racconta: il Made in Italy è già sul podio a cinque cerchi, dalle piscine ai rivestimenti delle piste d'atletica alle sedie per gli stadi, le nostre aziende protagoniste. Ma andiamo alla pagina interna del Corriere della Sera. Abbiamo accennato, vi ho letto sul Messaggero in prima pagina il titolo sulla questione dell'assessore Muraro, al centro delle polemiche per questo incarico di consulente all'azienda municipale da 12 anni, avrebbe percepito 1,14 milioni, anche se a domanda risponde: ma un milione, ma dovrei fare bene i conti. E c'è un'intervista appunto di Fabrizio Roncone: non ho conflitti di interessi. Vi segnalo appunto la domanda sui compensi. Ho il sospetto che i cittadini potrebbero indignarsi anche davanti ai suoi vecchi compensi. E lei risponde: ho fatto sempre il mio lavoro, e bene, molto bene, facendo guadagnare all'azienda oltre 900 milioni di euro, aiutandola a vincere la battaglia legale contro il famoso Cerroni. Fortini invece che ha fatto? L'altra sera sono uscita in perlustrazione e sa cosa ho scoperto? In via nazionale a spazzare la strada, a tenerla pulita, è un afgano. Un afgano, chiede Roncone. Sì, dovreste mandarci i fotografi. L'hanno ingaggiato un gruppo di negozianti esasperati dalla sporcizia. Poi però c'è Fortini che parla. Fortini è il presidente dell'AMA, che è dimissionario. un articolo, insomma, secondo me è comunque divertente, ci vuole sempre un po' di leggerezza, di Elvira Serra alla pagina 22 del Corriere della Sera, che intitolato La politica dell'accessorio. Si è parlato molto, adesso forse non so, Alessandro Milan forse lo considererebbe anche un premio dalla carta costa, però si è parlato molto, si è scritto molto delle scarpe leopardate di Theresa May, la nuova premier inglese britannica, e Elvira Serra Sara, insomma, ci racconta un po' come spesso appunto l'abbigliamento, gli accessori che usano le donne, diciamo, di potere o ai vertici, soprattutto in questo caso a donne in politica, si parla di come si vestono, di come si degli accessori che scelgono. E allora appunto la politica dell'accessorio, le scarpe di Theresa May, le braccia nude di Michelle Obama, sapete, è stata molto criticata, e ci si chiede: è sessista raccontare le donne attraverso l'estetica? E ricorderete anche, infatti c'è anche una sua foto, la foto che c'è a pagina 7 della premier danese, ma ricorderete anche la polemica con l'esponente del PD Moretti, che in un'intervista aveva detto che lei voleva essere ladylike, cioè come una lady, e che quindi andava molto dal manicure e apriti cielo, era scoppiata appunto un'altra polemica. Comunque si può riflettere con leggerezza, perché il tema è leggero, ma anche cercando di ragionare, specie se si è donne, su cosa si scrive, su come si giudicano le altre donne o come gli uomini giudicano esteticamente le donne. A proposito invece di sportivi, c'è una bella intervista di Maria Silvia Sacchi a pagina 31 del Corriere a Gianluigi Buffon, il portiere della nazionale, naturalmente, che negli ultimi 7-8 anni ha iniziato, anche in vista di un ritiro che per ora non c'è, perché appunto è ancora ai massimi livelli il portiere della nazionale e della Juventus, però anni fa ha cominciato a diversificare i suoi investimenti e per esempio nel 2009 entrò con il 2% nel capitale della Zucchi, e da allora ha perso molti soldi, si dice quasi 20 milioni. In questa intervista dice: con Zucchi ho dato il massimo, nonostante le pressioni per fare tagli o vendere a fondi aggressivi ho resistito e la barca è arrivata in porto. Però la mia conclusione è che quando si fanno questi investimenti vanno seguiti in prima persona. Torniamo sulla questione della Turchia, perché a pagina 9 Bernardo Valli ci racconta, abbiamo visto sul Manifesto anche, i giornalisti in carcere, così Erdogan fa il funerale alla democrazia. E ci sono le storie di questi ultimi arrestati, che sono naturalmente giornalisti, che negli anni e soprattutto negli ultimi mesi sono stati molto critici con Erdogan. Un riassunto di dove siamo con l'approvazione, con l'iter della legge sulla legalizzazione della cannabis, che sapete è andata in Parlamento lunedì scorso, ma naturalmente a questo punto se ne parlerà, visto le ferie che fanno in Parlamento a settembre. Silvio Buzzanca appunto ha cercato di capire quale potrebbero essere le votazioni, e la conclusione è: cannabis legalizzata al traguardo per 6 voti solo se il Movimento 5 Stelle sta col PD. Con il previsto no dei centristi la legge, numeri alla mano, non potrà passare. L'unica chance è che si crei un'alleanza anomala. E poi una questione veramente sconvolgente, poi in un momento in cui si parla molto anche delle polemiche sui vaccini: stamina beffa i PM, trovate a pagina 15 l'articolo di Jacopo Ricca, le cure di Vannoni, lo ricorderete, Davide Vannoni, che tra l'altro in Italia ha patteggiato 22 mesi di carcere per aver usato il suo metodo stamina, che è scientificamente dimostrato non ha alcuna efficacia, e però le ha portate a Tbilisi, in Georgia. E la giustificazione è: lì non è illegale, centinaia di infusioni somministrate, e non c'è una violazione del patteggiamento secondo gli avvocati di Vannoni. E intanto però appunto e Repubblica tra l'altro intervista Carmine Vona, che denunciò alla procura di Torino questo finto professore, e il titolo dell'intervista è: la mia rabbia contro chi ancora gli dà credito. Tantissimi, come potete immaginare, i ricordi di Anna Marchesini sulla Repubblica, una breve intervista di Silvia Fumarola all'ex collega Tullio Solenghi, componente insieme a Massimo Lopez del famoso trio, era Dinamite la più coraggiosa di tutti noi. Ma vi volevo leggere la maca di Michele Serra, perché racconta di un'altra grande donna scomparsa 3 giorni fa, che è Marta Marzotto, e naturalmente i giornali erano pieni ieri, e oggi Michele Serra scrive: un complessivo rispetto, forse una sorridente complicità, hanno accolto la scomparsa di Marta Marzotto. Strano, perché la sua fastosa e ostentata frequentazione dei salotti, delle caste di ogni ordine e grado, della ricchezza e del potere, sembrerebbe di questi tempi uno stigma indelebile. In parte lo è, considerando le difficoltà e gli stenti di molti. Azzardo una spiegazione. La signora nacque povera e faceva la mondariso, glorioso e durissimo lavoro dell'Italia contadina. La sua avventura umana è uno dei pochi esempi lampanti di Italian Dream, realizzato grazie a una rimarchevole bellezza, comune a molte donne, unita a una vivezza di carattere, una voglia di vivere invece non comuni. La sua ascesa sociale pare uscita da un romanzo francese, contiene nella sua spavalda determinazione una luce di successo che non può lasciare indifferente neppure il più ringhioso odiatore della gente bene. Ci sono pagine del provinciale di Bocca che dicono benissimo di questa umana smania di farcela e di salire in cima, motore di ogni società, in modo speciale dell'Italia della seconda metà del Novecento, quella della Marzotto e di Bocca. Spesso il successo diventa arroganza, esclusione degli altri, disuguaglianza che si cristallizza. In pochi fortunati casi il successo viene quasi perdonato, perché vale a garanzia dei sogni, confessati o inconfessabili, di molte e di molti. E passiamo invece alle pagine interne dell'Avvenire, che torna sulla questione dell'immigrazione, raccontando una storia in un certo senso positiva, il miracolo della vita fra i soccorsi. C'è stato infatti quello che viene detto fiocco rosa, cioè è nata una bambina a bordo della nave bettica della Marina Militare impegnata nei soccorsi. E, è una bambina figlia di genitori congolesi e appunto... È nata su una nave di disperati. Vi dicevo, sull'Avvenire trovate questo speciale di 8 pagine sulle giornate mondiali sulla giornata mondiale della gioventù. Un'ultima segnalazione prima del traffico, un'intervista all'ex sindaco di Roma, Ignazio Marino, che ogni tanto vuole ricordare di esistere. Sulla Stampa Fabio Martini dice: il governo non usi Roma come ring della politica, vinca la città, si rispettino le regole istituzionali. Ci fermiamo un attimo per il traffico. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica. Per la ultima parte della nostra rassegna stampa, dalle pagine interne dei giornali vi segnalo un articolo sul Giorno che riguarda il concorsone della scuola, che già infinite polemiche ha sollevato. L'ultima in ordine di tempo è quella che il Giorno definisce la rabbia dei prof lombardi. Bocciano soltanto noi. Al concorsone sono stati promossi in 63 su 690 ed è polemica, perché le griglie, queste famigerate griglie di valutazione, cambiano da regione a regione e variano a seconda della classe di concorso e non sono uguali per tutti. E credo che di questo si parlerà ancora molto, come del resto della riforma della scuola in generale. Un'ultima prima appunto di passare ai supplementi culturali, anche una segnalazione dal Messaggero che torna sulla questione RAI, perché mercoledì il consiglio di amministrazione della RAI, prima che anche loro probabilmente vadano a fare lunghissime ferie, deciderà sui direttori dei telegiornali e il nodo resta, spiega il Messaggero, il nodo Berlinguer. Ci sono appunto due problemi. Il primo è che nel CDA monta il malumore per il fatto che non è ancora stato formalmente presentato un piano editoriale. E il secondo nodo è la possibile sostituzione di Bianca Berlinguer al TG3. E anche qui, bizzarro, che anziché, non lo so, parlare, ma il TG3 fa ascolti, il TG3 piace, si pensa subito a un'epurazione, perché Bianca Berlinguer viene considerata antirenzista. Ci sarebbero tantissime altre cose. Solo dal Fatto vi segnalo un lunghissimo articolo di Selvaggia Lucarelli su Fabrizio Corona, che credo per tutta la sua vita resterà un personaggio controverso. Il titolo: Miracolo Corona, un fiume di soldi per il nulla tenente. E si parla un po' di tutto quello che sta facendo adesso che ha ottenuto, insomma, non è più in carcere e si è un po' ripreso la sua vita, che è fatta, come sempre è stata fatta, di comparsate, di apparizioni nei locali, e pare che, insomma, abbia ricominciato a guadagnare molto. Ma veniamo ai supplementi culturali. La domenica del Sole 24 Ore iniziamo come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi si intitola Al tramonto, la citazione di una poesia del poeta indiano Tagore. Non piangere quando tramonta il sole, perché le lacrime ti impedirebbero di vedere le stelle. Il crepuscolo è un grande simbolo per rappresentare il declino della vita personale o della storia di un popolo. È ciò che sottendono questi versi del poeta indiano Tagore. Accorgendoci che ormai gli anni stanno gocciolando verso la fine, che una sensazione gelida fa rabbrividire le ossa, che la luce è lentamente coperta dal sudario della notte, possiamo essere tentati dallo scoraggiamento e da un'agitazione oscura. L'invito del poeta è invece entrare nel tramonto camminando a occhi aperti e asciutti, come quando si era giovani, perché l'avanzare del manto delle tenebre è trapuntato progressivamente dal brillare vivido delle stelle. Fuori di metafora, anche nella parabola terminale della vita si possono vivere realtà belle e buone. Certo, sempre incombe su di noi una verità dura, formulata da Oscar Wilde così: vivere è la cosa più rara al mondo, la maggior parte della gente esiste, nulla più. E a proposito di morte, di persone che non ci sono più, un ricordo, e poi ne trovate altri due all'interno, di Pia Pera, la scrittrice, che è morta pochi giorni fa, e a proposito di guardare appunto fino all'ultimo, di vivere la vita fino all'ultimo, come ha fatto anche, lo abbiamo sentito, Anna Marchesini, viene ricordato il suo ultimo libro, che si chiama Al giardino non l'ho ancora detto, cioè non l'ho ancora detto che sto morendo, che ho una, perché Pia Pera era una grande esperta di giardini, un architetto dei giardini. Il memorandum del nostro direttore, nostro di Radio 24 e del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, oggi non c'è perché, come abbiamo visto, ha firmato il lungo editoriale sulla prima pagina del Sole. La copertina vera e propria è dedicata un articolo di Umberto Bottazzini che ricorda la figura di Federico Enriques. La cultura, secondo Enriques, matematico e storico della scienza, volle dare alla filosofia italiana un respiro internazionale. Dall'interno vi segnalo una testimonianza raccolta da Carla Moreni di Riccardo Muti, che sta per portare in scena la Traviata a Ravenna, e parla della sua passione per Giuseppe Verdi. Ci sono direttori che poi Muti, come tantissimi, come tutti i grandi direttori, può dirigere qualsiasi cosa, però hanno magari delle affinità elettive con un compositore. Nel caso di Riccardo Muti è sicuramente Verdi, e la foto è quella di Riccardo Muti con gli allievi dell'Italian Opera Academy al Teatro Alighieri di Ravenna durante le lezioni del secondo corso per direttori d'orchestra, maestri, collaboratori e cantanti. E poi un ricordo bellissimo di Goffredo Fofi di Roald Dahl, che è forse uno dei più, anzi senza forse, uno dei più importanti e conosciuti e di successo scrittori di storie per bambini, ma che poi sappiamo che spesso le fiabe noi le cataloghiamo così, racconti per bambini, poi in realtà possono essere lette da tutti e hanno spesso grandissimi insegnamenti. Il titolo è Sopravvivere ai mostri. L'occasione è perché 100 anni fa nasceva il grande scrittore che mise in discussione l'idea di maturità per trasferire l'infanzia nel luogo della libertà e dell'utopia, così scrive Goffredo Fofi. E per recensire la raccolta Tutti i racconti di Longanesi, Camilla Tagliabue intitola il suo pezzo Diversamente bambini. E poi sotto ci sono, forse ve lo ricorderete, l'abbiamo citato settimana scorsa, questo libro di Stefano Benni e Altan che si intitola 10 teorie sull'estinzione dei dinosauri, un bestiario fantastico. E qui ci sono Stefano Benni, proprio che c'è una specie di anticipazione di questo libro, Universi fantastici, con alcuni di questi disegni di questi dinosauri che veramente non sono mai esistiti se non nella fantasia appunto di Altan e di Stefano Benni. La lettura del Corriere della Sera dedica la copertina, come sempre, a un artista, Goldi e Chiari, che in realtà sono due artiste, Sara Goldschmidt e Eleonora Chiari, giovani anche, 75-71. Dall'interno vi segnalo un modo diverso anche di pensare alle grandi migrazioni. Il titolo del pezzo di Amedeo Feniello, che recensisce un libro di uno storico francese, Philippe Braunstein. Dico Braunstein perché probabilmente in Francia lo pronuncio così, ma naturalmente se lo leggessero in Germania sarebbe Braunstein, ma è appunto uno storico francese. Quando emigravano i tedeschi e la terra promessa era Venezia. La Serenissima attirava dal nord Europa giovani nel Medioevo, giovani di famiglie facoltose ma anche avventurieri, mercenari e vagabondi. Acquisire la cittadinanza non era facile, ma poi le autorità locali che capirono che era utile investire nelle risorse umane provenienti dall'estero, parliamo di parecchi secoli fa. Poi vi segnalo due pagine molto divertenti, un articolo di Severino Colombo e poi un approfondimento, una carrellata di Costanza Rizza Casa d'Orsogna sulle scrittrici donne di gialli, e il titolo è Montalbana sono, intrepide ma senza volerlo, o cacciatrici, singolo con figli e nonna al seguito, è l'assalto di investigatrici e commissarie. Sempre dalla lettura del Corriere della Sera, un'anticipazione del prossimo libro di Jay McInerney, che forse lo ricorderete, insomma, chi di noi ha qualche anno. È stato il suo più grande successo è stato Le Mille Luci di New York, quasi 30 anni fa, e poi da allora, appunto 32 anni fa, era stato quello il suo libro di debutto, e poi ne ha scritti tanti altri, si è dedicato anche, è diventato un grande esperto di vini. Adesso però esce il nuovo romanzo, sarà in Italia, esce a settembre, si chiama Bright Precious Days, La luce dei giorni, tradotto in italiano, pubblicato da Bompiani, e qui ce lo racconta in anteprima Matteo Persivale, che di lettura americana è un grande esperto, non solo, ma anche di letteratura americana. E proprio avete due pagine per stuzzicare un teaser, insomma, tutto sommato, perché non è una vera anticipazione del libro, però Matteo Persivale ce lo racconta per come lo ha letto lui. La domenica invece ha un'altra anticipazione nel nuovo libro di Roberto Saviano, che dovrebbe uscire per Natale, quindi un po' presto forse per anticiparlo, però questa è la copertina della domenica della Repubblica. Roberto Saviano naturalmente è un collaboratore di Repubblica. Giovanissimi, veloci, violenti sono i protagonisti dell'atteso romanzo di Roberto Saviano. Ecco, in alcuni brani in esclusiva, La paranza dei bambini, e trovate per l'appunto tre pagine, forse anche di più, su questo nuovo libro. E poi invece, molto bello questo a proposito di carrellate, per 15 estati Paolo Rumiz, altro collaboratore di Repubblica, ha raccontato pezzetti di mondo, ora ha scelto di fermarsi per insegnarci in quattro tappe quello che ha imparato, istruzioni per un viaggio perduto. Tra i viaggi che ha fatto, per esempio nel 2001 in bici sui Balcani, con destinazione Istanbul, poi nel 2005 a Gerusalemme, nel 2008 l'altra Europa dall'Artico al Mediterraneo, insomma, e poi questa è la prima puntata, oggi trovate la prima puntata, le prossime verranno pubblicate nei prossimi giorni. Per la serie Straparlando, le belle interviste su due pagine della domenica di Antonio Gnoli, illustrate da Riccardo Mannelli, questa settimana è Vittorio Avanzini, che è fondatore della casa editrice Newton Compton e che può raccontare davvero 50 anni di editoria. Macro del Messaggero, ve lo segnalo per un libro di uno scrittore, saggista soprattutto, che a me piace tantissimo, che è Karl Kraus. I suoi aforismi secondo me sono quasi sempre fulminanti. Questa volta però è per recensire la nuova traduzione della Terza Notte di Valpurga, primo e più potente testo contro il nazismo, monito contro tutti i totalitarismi, e Karl Kraus svelò la ferocia del male. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Carmelo Lauricella in regia, e per una volta posso dirvi ci sentiamo domani, perché Alessandro Milan, come saprete, è in vacanza, e quindi domani per la rassegna stampa ritroverete me. Ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.